M&M. Parole e musica dai film. Pietà per la nazione, i cui uomini sono pecore, e i cui pastori sono guide cattive. Pietà per la nazione, i cui leader sono bugiardi, i cui saggi sono messi a tacere, e i cui fanatici infestano le onde radio. Pietà per la nazione che non alza la propria voce, tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i violenti come eroi, e che aspira a governare il mondo con la forza e la tortura. Pietà per la nazione il cui fiato è denaro e che dorme il sonno di quelli con la pancia troppo piena. Pietà per la nazione, oh pietà per gli uomini, che permettono che i propri diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via! Liberi tutti. Che vuol dire assimilare? Beh, significa capire. Sì, esatto, Sandy. O anche assorbire. Chi risponde? Essere ovunque in ogni momento. Quindi se associamo l'ubiquità all'assimilazione? Assimilazione ubiqua, assorbire ovunque in ogni momento. Molto esaustivo, Giorgio. E come si riesce a immaginare qualcosa se le immagini ci vengono sempre fornite da altri? Chi di voi ha letto 1984? Brava. Cos'è il bipensiero? Avere due pensieri opposti contemporaneamente e credere che entrambi siano veri, giusto? Eccellente, Meredith. Porca troia, ma è possibile che debba sempre leccarle il culo? Significa credere scientemente a delle bugie pur sapendo che sono tali. Un esempio tratto dalla nostra vita quotidiana. Oh, io devo essere carina per essere felice. Ho bisogno della chirurgia per essere carina. E devo per forza essere magra, famosa, alla moda. In quest'epoca, l'immagine della donna è ridotta a un oggetto di consumo. Prostitute, corpi da scovare, da picchiare, da comprare, da scegliere. Ragazzi, è l'olocausto del marketing. Ogni minuto della nostra vita, 24 ore su 24, le entità del potere lavorano sodo per annientarci il cervello. E allora, per difendere la nostra identità e preservare i nostri processi mentali dall'assimilazione passiva di un mare di merdose idiozie, la sola cosa è leggere per stimolare l'immaginazione e la libertà di pensiero e coltivare la nostra coscienza secondo il nostro sistema di credenze. Fidatevi, l'unico modo per sopravvivere è poter preservare la nostra mente. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo un uomo nero, chiamo il babà, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va, non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. La notte poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. E fa parte del gioco. Tu non farci caso, se non vivi poco. Tieni sempre duro, comincia di nuovo. Comincia di nuovo, comincia di nuovo. Anche per la strada tu stai rischiando. Stai sopra pensiero, stai rimuginando. Passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura. Aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura. Vai per la tua strada senza paura. Ma vai per la tua strada senza paura. qualunque settimana, giunge il giorno di qualunque settimana, battono alla porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma va per l'altro via senza paura, ma passa per la morte senza paura, senza paura, senza paura. Negli scacchi l'aiuto non è permesso. E questo è il bello del gioco. Sei costretto in una serie di mosse determinate dalle tue scelte precedenti. Le tue opzioni mutano drasticamente ad ogni decisione. Non c'è ancora di salvezza. Non c'è alcuna forza esterna in gioco. È una battaglia pura tra due avversari. O come in questo caso, uno. C'è uno stallo. Ancora. Se ricomincia, serve un vincitore. Ricordi quando mi hai insegnato a programmare? Veramente no. Erano gli scacchi per computer. Mi dicevi che dovevo conoscere in anticipo più mosse del giocatore. Sembra un buon consiglio da un buon padre. Tranne che per una cosa. Non sei mio padre. Non sei neanche qui adesso. Un altro stallo. Davvero strano, eh? Ricominciamo. Non stai male al pensiero che, mentre sei qui a dare battaglia a me, qualcuno fa soffrire i nostri cari? Loro soffrono per colpa nostra. Stiamo girando in tondo. Questa sarà l'ultima volta che succede. Riflettevo su quello che hai detto. Puoi pensare a tutte le mosse che vuoi, ma in fin dei conti le mie mosse sono quelle che tu mi dici di fare. Ha ragione. Dopo tre mosse di ognuno ci sono oltre 9 milioni di posizioni possibili. Oltre 288 miliardi di posizioni possibili dopo 4 mosse. Dopo 40 mosse, il numero è superiore a quello degli elettroni nell'universo osservabile. Non è necessario prevederle tutte. Devi solo riuscire a prevederne più del tuo avversario. Ma come fai quando il tuo avversario sei tu? Altro stallo. Il terzo di fila. Le probabilità è impossibile. Sono... Un'altra? Non posso batterti. E tu non puoi battere me. Looking at all the life, there were plants and birds and rocks and things, there was sand and hills and rains. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. Good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrani, a quelli che non si arrendono davanti all'evidenza, a quelli che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, glorificarli o denigrarli. Ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli, perché loro cambiano le cose. Loro fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio, perché solo quelli che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano veramente. Lightning, heavy metal thunder, dancing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and what's in. Explode into space. Explode into space.